5, 4, 3, 2, 1. Conto alla rovescia. L'Italia nello spazio. 8.000 sigarette, 6.000 caffè per la notte più lunga della televisione italiana. Lo studio 3 di Via Teulada è stato il passaggio obbligato delle ansie, delle attese snervanti e di tutte le emozioni procurate da queste 25 ore lunari. Sono le 19.28 di domenica 20 luglio 1969. Gli ultimi ritocchi, poi l'avventura. Allora, silenzio, pronti, mancano 30 secondi. 22.15, il primo momento drammatico. Il LEM sta per toccare il suolo lunare. Guardami Tito Stagno, Tito Stagno. Eccolo. Qua 5 piedi e mezzo. Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Non ha toccato, insomma, un'emozione formidabile. Ci sono dei suoni della radio e della televisione che non ci si stanca mai di riascoltare e da qui ripartiamo. Intanto vi saluto, sono Gigi Donelli in studio con Giovanni Caprara, responsabile delle pagine scientifiche del Corriere della Sera, per continuare a raccontare l'avventura formidabile dello spazio in chiave tricolore, quindi il ruolo degli uomini, degli ingegneri, degli astronauti, insomma di quelle migliaia di persone che in questi anni hanno lavorato a questo grande progetto. Abbiamo sentito dunque l'uomo sbarca sulla Luna. L'Italia rimane a bocca aperta come il mondo intero, milioni di persone sono affascinate, eppure quello che poi vediamo nell'immediato proseguo appunto dell'avventura è che quelli che seguiranno, insomma, sembrano quasi condannati all'oblio. L'Apollo 11, tutti conosciamo i nomi, già l'Apollo 12, devo dire che bisogna rivolgersi a esperti come te per conoscere i nomi degli astronauti. L'unica alternativa è che ci sia un dramma o un momento di emozione drammatica. Ok, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Houston, we have a problem, quindi l'Apollo 13. Allora la drammatizzazione e il fallimento di fatto della missione riporta l'attenzione per qualche giorno in una missione che, Giovanni, è leggenda o è vero che non fu nemmeno seguita dalla televisione americana, di fatto l'Apollo 13, fino all'inizio del dramma? Ma indubbiamente ormai la Luna, non dico che fosse dimenticata, ma era caduta nell'emozione, nell'interesse della gente. Ed era l'anno successivo. Parliamo del 70. Appunto, quindi in fretta si era dimenticata la Luna. Però appunto quel disastro ha riacceso immediatamente l'interesse e poi bisogna aggiungere che però finita la tragedia con un grande successo, la Luna è stata di nuovo accantonata. La Luna è stata accantonata, se ne è tornato ovviamente a parlare proprio pochi mesi fa, ma per una questione di anniversario. Ogni tanto si parla del futuro, la costruzione delle basi, l'acqua a sud della Luna, insomma tutte cose da costruire. Di certo, entrando negli anni 70, si entra in un'altra dimensione. La sfida tra Stati Uniti e Unione Sovietica, chiuso il capitolo lunare, si sposta sulla permanenza in orbita. E da questo punto di vista, ancora una volta, i sovietici si portano avanti. 71, la Salyut, quindi come trascorrere lungo tempo nello spazio. Sì, la Salyut è stata la risposta sovietica alla loro mancata conquista della Luna, perché ovviamente era duplice questo obiettivo, sia da parte di Washington che di Mosca. I russi non riuscirono a costruire il razzo indispensabile per il grande viaggio. E così, anche per soddisfare esigenze militari, puntarono ad un grande laboratorio al quale per il momento sul quale gli americani non si erano ancora impegnati e che dava loro la possibilità di controllare dallo spazio la Terra. In realtà anche alla NASA si guardava in questa direzione ed era lo stesso von Braun che cercava il modo per concretizzare l'idea di una stazione spaziale, che era stato uno dei suoi grandi sogni assieme al viaggio su Marte. Purtroppo la politica non dava molto ascolto a queste esigenze, a questi sogni che continuavano a replicarsi. La Luna era già stata conquistata con successo, non c'era più il bisogno di dimostrare di essere superiori. Si ripeteva un po' la situazione del quando venne fatta esplodere la prima atomica in Giappone. La ragione era sempre la stessa e quindi di nuovo l'America si sentiva padrone del mondo, la Russia, l'Unione Sovietica era stata accantonata. In quel momento si cercava però di aprire al futuro della collaborazione, quindi si guardava anche l'Europa. Nel frattempo von Braun riesce a sistemare le cose in un certo modo, ad utilizzare uno dei suoi grandi razzi Saturno, trasformando il secondo stadio in quello che diventerà il più grande laboratorio americano fino all'epoca delle stazioni spaziali. 4, 3, 2, 1, and lift off. It was the afternoon of May 14th, 1973, when the unmanned Skylab Saturn workshop was hurled aloft at Cape Kennedy, on the way to its assigned orbit 236 nautical miles in space. Lo Skylab, quindi nel maggio del 1963, viene portato in orbita da questo grandissimo razzo, però non tutto va come si sperava che andasse. Purtroppo no, perché nella fase di ascesa succede qualcosa. Il sistema che poi avrebbe dovuto consentire l'apertura di un grande pannello solare si blocca e questo creerà notevoli problemi, perché la prima missione abitata naturalmente dovette essere finalizzata al recupero della situazione, perché se non risolvevano questo problema non si poteva abitare, quindi si andava da un sogno ad un altro grande guaio, anche perché non solo c'era il problema dell'energia fornita dal pannello solare, ma bisognava anche chiudere un buco, letteralmente, che si era creato nella parete del laboratorio e che naturalmente avrebbe creato l'impossibilità ad abitarlo. La prima missione fu di nuovo un grande successo. L'America, nei momenti più difficili, come era stato per Apollo 13, riesce a trovare l'energia, l'intelligenza e la capacità per superare le difficoltà e finalmente lo Skylab è pronto per essere abitato. Siamo dunque negli anni 70, la partenza è complessa, però l'idea che l'uomo debba imparare a vivere per dei periodi più lunghi, che non siano quelli delle prime missioni, che erano naturalmente poche ore all'inizio e poi pochi giorni, entra comunque nell'ambito della convinzione comunque di entrambi i blocchi di allora. Insomma, la permanenza nello spazio e in microgravità si prolunga e in questo capitolo in particolare l'Italia svolge un ruolo molto interessante. Ernesto Vallerani, laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, PhD a Pasadena in California nei primi anni 60, lavora prima in Fiat e poi in Air Italia. Premio von Braun per il contributo allo sviluppo delle tecnologie per la costruzione degli ambienti che consentono la vita in orbita. Nel 91 è presidente di Alenia Spazio. Insomma, un curriculum importantissimo, quello dell'ingegner Vallerani, che ringraziamo di essere qui con noi e che ci riporta al tema che stavamo affrontando, che è appunto quello del vivere in orbita. Ingegner Vallerani, siamo idealmente all'inizio degli anni 70, anzi nel 71 la prima stazione spaziale sovietica, nel 73 poi quando negli Stati Uniti mettono in orbita Skylab. La sfida si sposta dall'andare sulla Luna a restare nello spazio. L'Italia che ruolo svolge? Inizialmente un po' da spettatori, perché partiti in ritardo non si è avuta la possibilità di comprendere quello che stava avvenendo intorno a noi. Lo spazio in Italia comincia con interessi diversi da quelli del volo umano, però poi un'occasione si presenta estremamente interessante e da mettersi in connessione all'offerta fatta dagli Stati Uniti all'Europa di partecipare allo sviluppo dello Space Shuttle. E questa è un'occasione che l'Italia non si lascia sfuggire, per fortuna, con molta lungimiranza. L'Italia investe in questo settore a livello europeo in maniera molto significativa, un 15% nei programmi europei che prevedono lo sviluppo dello Space Lab, il laboratorio spaziale europeo. Questa è l'occasione che ha permesso all'Italia di mettere con autorevolezza, se mi è permesso, il piede all'interno di questo settore. Ecco, da Skylab a Space Lab significa anche Air Italia contro Selenia Spazio, una forte competizione, oltre 150 milioni dell'epoca in gioco. Allora, lei da che parte stava e come ricorda quel periodo? Ma è stata una competizione veramente ardua e veramente, diciamo, fino all'ultimo sul filo del rasoio. Più di 150 milioni, parliamo milioni di dollari, non stiamo parlando di milioni di lire di quel tempo, costituivano il più grande contratto che l'ESA avesse mai pensato di affidare alle industrie europee. L'Italia era schierata con un consorzio sotto la guida dei tedeschi dell'Erno e naturalmente i nostri, chiamiamoli per ora, cugini di Selenia Spazio stavano dalla parte opposta. E noi, è andata bene, siamo stati dalla parte dei vincenti e non è andata bene solo a noi, ritengo che sia andato bene all'Italia nel senso più lato. Perché il contributo che offriva la Selenia Spazio, guarda caso, era inesorabilmente sempre il solito, qualcosa legato alle telecomunicazioni, che, importanti finché si vuole, con il discorso della presenza dell'uomo nello spazio, non è che siano essenziali. Noi invece eravamo impegnati in qualcosa di unico e di molto innovativo, i moduli pressurizzati che permettevano all'uomo di vivere nello spazio. E che ancora oggi rappresentano sicuramente un fiore all'occhiello dell'industria italiana. Diciamo, ancora oggi sono un elemento portante di una parte ragguardevole dell'industria italiana che negli ultimi anni è evoluta verso forme di cooperazione internazionale e oggi Thales Alenia Space, che ha in Torino uno dei poli della propria attività, vive ancora, diciamo, del frutto della continuità di quel tipo di scelte che sono state fatte. Ernesto, se posso farti una domanda. Dimmi. Questo successo è stato anche il frutto di una intesa molto cordiale, molto profonda con i tedeschi, fra te e la Germania. Beh, diciamo, lo schieramento era molto simmetrico, stiamo parlando di due consorzi che si contrapponevano e, dire la verità, siamo riusciti all'interno di questo raggruppamento guidato dai tedeschi, perché guidato dai tedeschi? I tedeschi avevano il 25% degli investimenti, gli italiani il 15%, e quindi era naturale che fossero loro per il momento a portare la bandiera. Io che fui diciamo scelto per essere la guida di questo programma ho perseguito fino dall'inizio una politica di grande cooperazione con i tedeschi, perché era chiaro che solo da una forte cooperazione fra Germania e Italia, fra Erno e Air Italia, si sarebbe potuto superare le difficoltà. Voglio semplicemente sottolineare che a quel tempo parlare di moduli pressurizzati, parlare di presenza dell'uomo nello spazio era una cosa fuori da ogni immaginazione. Noi siamo passati dalle scuole elementari, se posso dire, dove ci stavamo muovendo i primi passi di attività spaziali, all'università dello spazio. E un salto enorme che è anche stato un po' un salto nel buio, perché fino all'ultimo momento il successo non è che fosse garantito, ce lo siamo sudati e ce lo siamo conquistati sul campo. Dunque, un rapporto che abbiamo sentito molto forte con la Germania, naturalmente senza mai dimenticare la relazione sottostante, costante con gli Stati Uniti, che portano anche alla costruzione dei moduli e allo scambio che di fatto porta l'Italia, l'Agenzia Spaziale, all'interno dei grandi progetti proprio dello Shuttle. Certo, un triangolo estremamente interessante. La NASA da un lato, dall'altra parte l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana, che trovano delle forme abbastanza innovative di cooperazione nelle attività spaziali più significative, a mio avviso, quelle che hanno la prospettiva di continuare questa presenza, di assicurare la presenza dell'uomo nello spazio e di proiettarlo anche verso il futuro. Ernesto, io credo che ci sia anche un altro elemento interessante da ricordare, cioè questa intesa che si era creata fra l'agenzia, prima il piano spaziale, e l'industria da te guidata, e quindi il piano che andava a cercare delle innovazioni da portare sulla scena italiana, cioè il professor Luciano Guerriero che ha capito questo e tu che nell'industria riuscivi poi a recepire quelli che erano anche gli interessi di un mondo che si stava aprendo in maniera anche rischiosa, perché collaborare con l'America c'era pure anche il problema di non finire fagocitati e di fare ben poco. Ma diciamo, tu hai evocato la figura del professor Guerriero, che è stato certamente nel dopo Space Lab, stiamo già parlando degli anni che seguono l'evoluzione dello Space Lab, che sono i più interessanti, i più pregni di potenzialità per l'Italia, che fanno poi nascere, come si potrà eventualmente vedere, Columbus in moduli logistici. C'è stata nella figura del professor Guerriero la persona che ha compreso la potenzialità di questo discorso e ha assecondato la spinta forte che veniva da parte di Finmeccanica, che attraverso questi programmi voleva assicurare ad Aeritalia il ruolo primario di ditta sistemista italiana a livello europeo. Siamo ancora in un momento nella quale, come si accennava prima, c'è questa da che parte si sta? Si sta dalla parte di Selenia o si sta dalla parte di Aeritalia? È stata una competizione all'interno della competizione europea estremamente interessante e alla fine tante cose sono andate per quello che io posso considerare il verso giusto, perché non solo nella persona di Guerriero con il piano, allora si chiamava Piano Spaziale Nazionale, ma anche a livello poi di Ministero, abbiamo avuto nel compianto onorevole Granelli la persona che ha saputo cogliere questa potenzialità di uno sviluppo tutto italiano di questi moduli. Ingegner Valerani, allora siamo inevitabilmente alla grande stazione spaziale internazionale, il modulo Columbus, il ruolo naturalmente di Torino, dell'industria italiana in questa storia, ma siamo anche quasi al termine del nostro tempo. Ora siamo anche alla fine della costruzione della stazione spaziale internazionale. Oltre che cosa c'è? Ma oltre c'è il futuro, innanzitutto c'è la permanenza nello spazio a bordo della stazione, che non deve essere abbandonata, la stazione deve essere continuata il più possibile. Oltre c'è il ritorno ai gradini successivi dell'esplorazione spaziale, muoversi verso la Luna, muoversi eventualmente alla conquista di qualche asteroide o di qualche oggetto prossimo alla Terra, puntando sempre su Marte. E qui nasce un aspetto per me abbastanza interessante. L'Italia, in continuità con il ruolo che ha avuto in passato, potrebbe giocare, a mio avviso dovrebbe giocare, un ruolo molto significativo, strategicamente importante. Mi spiego. L'Europa ha ancora da scegliere in maniera definitiva quale posizione prendere a lato degli Stati Uniti in America sul discorso dell'esplorazione. È titubante, non ha ancora una linea chiara. L'Italia potrebbe essere, a mio avviso, ripeto, deve essere quell'elemento che forza in un certo senso gli europei a pigliare delle decisioni con un investimento per il futuro. Abbiamo tutte le preparazioni industriali e culturali per giocare in Europa e nel mondo un ruolo importante nell'esplorazione. I moduli pressurizzati, di cui ne sono stati fatti moltissimi, Space Lab ha avuto qualcosa come una ventina trentina di moduli derivati tra i moduli logistici italiani, i nodi, i moduli che sono connessi con Ariane 5. C'è tutta una catena che porta inesorabilmente laddove già tanti anni fa volevamo arrivare, mettere sulla Luna un modulo Made in Italy, che è il figlio di tutte quelle iniziative, di tutti quegli investimenti che l'Italia ha fatto nel passato. Grazie ad Ernesto Vallerani che ci ha aiutato a ripercorrere la storia, ma avete visto, assolutamente proiettata nel futuro, non certo per il gusto della storia fine a se stesso. E grazie naturalmente anche a Giovanni Caprara che ci ha accompagnato in questa seconda parte del viaggio nella storia dello spazio italiano e che naturalmente ci seguirà anche nella tappa successiva. Avete sentito Vallerani parlare di un'Europa titubante e credo che possiamo ben anticipare che questo discorso lo ritroveremo anche nell'ultimo appuntamento che riguarda gli astronauti, dunque i protagonisti più diretti di questa grande avventura. 3, 2, 1. We have ignition.